Il punto di Stefano Folli. Il peso degli incerti irrompe negli ultimi giorni della campagna. Se hanno ragione i sondaggi di Mannheimer che parlano di un 30% di elettori che devono ancora decidere, e il che è comunque molto verosimile, si capisce che siamo davanti a un dato che può ancora modificare gli equilibri politici, un dato che renderebbe poco affidabili tutte le alchimie previste fino a oggi. Ma è anche possibile che chi non ha deciso fino ad oggi come votare non decida nemmeno negli ultimi giorni e se ne stia a casa. In ogni caso c'è da riflettere. 30% di potenziali astenuti, più una percentuale imponente di voti antisistema, di voti che esprimono scetticismo e astio verso l'Europa matrigna. È la fotografia di un paese che ha bisogno di essere rassicurato prima e risanato poi, e invece sembra che manchino sia lo psicologo sia il medico.